aveva un sogno tutto italiano, rumena dal cuore rumeno, lavorava come una schiava, ogni giorno e la notte pregava di tornare a vedere la sua terra, che lasciò partita per una guerra, l'anima incollata a una valigia, sempre pronta, sempre più grigia. Il fuoco non poteva scaldare tutto il freddo che aveva nel cuore, eppure poco le poteva bastare per poter tornare a ballare. Chi la vedeva la trovava bella, ma di dentro non era più stella. Le giornate le passava in silenzio, a cercare le ore del mondo. Ogni promessa è fango, un chiodo da ingoiare. Ogni sogno infranto, una vita per soffrire, una corda di spago, non più per partire, ma per appendere al collo tutto il suo dolore. Giorno dopo giorno piove sulle sue calze bucate, tacchi a spillo per la sfilata, per nascondere la sua vera vita. Proteggeva bene i suoi segreti da uomini senza scrupoli, senza attributi. Ora che è morta come una dannata, nessuno più violenterà la sua vita. Gli avevano promesso il paradiso, gli avevano detto agli italiani basta un sorriso, ma la bellezza di un popolo intero si riconosce da come cura il suo grano. Non cercava gloria, solo lavoro, per molti anni è stato bianco, a volte nero. La bellezza di un popolo sovrano svanisce quando umilia l'uomo. Ogni promessa è fango, un chiodo da ingoiare. Ogni sogno infranto, una vita da dimenticare, una corda di spago, non più per partire, ma per appendere al collo tutto il suo dolore. Giorno dopo giorno piove sulle sue calze bucate, tacchi a spillo per la sfilata, per nascondere la sua vera vita. Proteggeva bene i suoi segreti da uomini senza scrupoli, senza attributi. Ora che è morta come una dannata, nessuno più violenterà la sua vita. Promessa è fango, un chiodo da ingoiare. Ogni sogno infranto,